Palla Spicchi di Dario Ricci. Ben ritrovati, Giorgio De Luca in redazione, Pietro La Corte in regia per raccontarvi queste sfide di questa sera dei quarti del campionato che sono davvero intriganti. Devo dire che ho già cambiato idea, questi quarti al meglio delle sette partite alla fine mi sono piaciuti parecchio. Oggi programma ricco perché in campo Cantù, Lenovo Cantù, banco di Sardegna-Sassari per gara 6, siamo 3-2 per i sardi, ma 42-34 quando mancano poco più di 2 minuti all'intervallo per quanto riguarda Cantù, e poi Trenkwalter Reggio Emilia Acea Roma, con Roma avanti 3-2, partita iniziata da pochissimo. Andiamo subito sui campi, andiamo subito a Cantù da Roberto Nardella. Ben trovato Roberto. Ecco Roberto, pronto? Sì, pronto, eccolo. Spero qua. Mi sentiate, vi chiedo anche sì, conferma, sì. Comunque qui siamo a circa 100 secondi dalla fine del primo tempo, 42 per Lenovo, 36 per il banco Sardegna-Sassari. In questi primi 18 minuti abbondanti di gioco, 9 punti per Amadori, 6 di Paius e Mancinelli da una parte, dall'altra Gordon con 14 e con un 7 suoto dal campo soprattutto, e Drake Diner con 13, di cui 10 nel solo primo quarto. Stanno tenendo lì la formazione padrona di casa, scusate, la formazione offensiva, anche se per tutta la partita, fine dalla palla 2, è sempre stata la Lenovo Cantù a fare la partita, tenendo sempre la testa della stessa. Ecco Roberto, mi sembra che il tiro da fuori dei sardi, per quello che ho visto, faccia un po' cilecca questa sera, o sbaglio? Pronto Roberto? L'entusiasmo del Pianella fa taglia fuori sul nostro Roberto Nardella. Vediamo se va meglio a Reggio Emilia con Fabrizio Fabbri. Ben trovato Fabrizio, Roma che ha il primo match point per chiudere la serie con Reggio. Sì, eccomi, 7 per la formazione di casa, 8 per la CEA Roma, che è partita con canestri da 3 punti per da Tom e Bobby Jones e 2 punti per la Valla, risposto dall'altra parte con Cicciarini, molto ispirato questa sera la formazione di casa, tiro da 3 di da Tom, adesso sbagliato, il punteggio resta inchiodato su 7-8, 4-46 da giocare di una partita che chiaramente si gioca con i ritmi di una partita del dentro fuori, specialmente per la formazione di casa, che cercherà chiaramente di prolungare questa serie. Intanto viene fischiato fallo a Gigi Datome e si riprenderà con una rimessa da lato, mentre ci sta il primo cambio per Max Menetti, fuori Slanina che è l'uomo designato a marcare Datome, dentro Jeremic che prende il suo posto per provare a mettere la museruola dell'azzurro di Simone Pianigiani. Ripetiamo il punteggio, Trenkwalter 7, Acea Roma 8, la linea può andare a te allo studio. Fabrizio, da quello che mi dici, un Bobby Jones che sembra sveglio anche oggi, dopo la buona, anzi ottima direi, prestazione in gara 6, in gara 5. Assolutamente sì, assolutamente sì. E adesso è proprio Bobby Jones che va a realizzare il canestro del 7-10. Quinto punto per Bobby Jones sul pallone recuperato dalla Valle. Sì, lo dicevo, lo sottolineavo prima, sembra proprio che Bobby Jones abbia un conto aperto con la formazione reggiana, perché chiaramente con un'annata abbastanza difficile è riuscito però a cucire delle partite molto importanti. Intanto c'è palla persa da Reggio Emilia, Roma avanti di 3, 10-7 con il pallone in mano e quindi con la possibilità di avere un vantaggio maggiore, mentre c'è un nuovo cambio, fuori Brunner, dentro Cervi. Ripetiamo, 4 da giocare, 7 per Spalder, 10 per la CEA Roma. Allora, grazie Fabrizio Fabbri, torniamo subito, anzi presto da te. Intanto ultimi 40 secondi prima dell'intervallo lungo a Cantù, tra Cantù e Sassari, più 8 per i canturini. Ben trovato Stefano Valenti, 44-36 a 38 secondi dall'intervallo a Cantù. Ciao Stefano. Buonasera a voi. Ecco Stefano, innanzitutto salutiamo anche noi Sasha Danilovic, vittima di una brutta disavventura un paio di giorni fa a Belgrado, un'aggressione, un accoltellamento, insomma, e sembra che i pericoli siano scongiurati. Insomma, sappiamo quanto Danilovic sia stato bandiera anche del nostro basket, anche se tante medaglie ce l'ha tolte, Stefano. Chiusa questa parentesi. Sì. Mi sembra, ho cambiato già idea, queste serie al meglio delle sette a me piacciono, tu? Guarda, che si entra da oggi nella nuova dimensione nei playoff al meglio delle 7 con gara 6. Quindi siamo in attesa di vedere i risultati, che le serie siano avvincenti non c'è dubbio, al tempo stesso c'è un grande predominio del fattore campo e mi sembra che ci siano anche dei discorsi di energia pura dietro. La cosa che un po' mi preoccupa è che al di là di un paio di casi di roster effettivamente molto profondi, ma se uno dei due è quello di Siena e uno tra Siena e Milano uscirà comunque, mi preoccupa l'idea di vedere squadre giocare 7 partite o 6 partite in primo turno, magari altrettante nel secondo turno, insomma alla fine si rischia di giocare un intero girone di andata più metà del ritorno condensato in pochi giorni e non vorrei che lo spettacolo pagasse dazio in maniera grave. Eh sì, finora non sta pagando dazio, direi invece l'agonismo, perché pur con i polmoni quasi prosciugati le squadre ce ne stanno mettendo tutta. Tra l'altro è arrivato proprio da pochi istanti una tripla di Brian Sacchetti, 46-41 all'intervallo per Cantù su Sassari, ma tripla che chiaramente è benzina nel motore degli uomini di Meo Sacchetti. Andiamo alla 7 in questa serie, Stefano, che dici? Sai, è chiaro che una serie lunga ha indirizzato nelle ultime partite anche scelte degli allenatori, no? Perché chi ha giocato in trasferta, il caso di Siena ieri ad esempio, abbiamo visto che Banchi ha richiamato presto poi in panchina i suoi uomini chiave per averli meglio nell'episodio decisivo. C'è il rischio che possa succedere anche stasera se la partita dovesse essere segnata con un certo anticipo, e questo magari è vero che magari viviamo con emozione l'avvicinamento a una gara 5, una gara 6, poi però in realtà questa emozione si smorza, perché se c'è una squadra che prende il predominio poi la gara finisce molto presto in vista di quella che seguirà, e questo magari non dà il giusto peso allo spettacolo che comunque le squadre, va detto, stanno mettendo in campo sul piano tecnico ma anche agonistico. Sì, insomma, si vede qualche minuto di troppo magari di garbage time. Proviamo a ritornare da Roberto Nardella al Pianella per avere una sintesi di questo primo tempo. Roberto, allora Cantù avanti, ma Sassari non molla davvero adesso. Allora, buonasera qui dalla Sport Pianella. Sicuramente dello studio, perché Cantù sempre avanti, ma Sassari continua a risultare, rimane lì nell'ultimo frangente del secondo quarto, l'altro partendo in realizzato con un break di 9-2, è risalita anche sulle 38-29, prima però della mezza partita è arrivato un terzo di ricordo e soprattutto la tripla sulla sirena. Eh sì, niente, sommerso dall'entusiasmo canturino il nostro povero Roberto Nardella. Beh, Stefano, guardiamo anche al campo a Reggio Emilia, dove Roma ha questo match point e intanto ha ritrovato un Bobby Jones a livelli che raramente si erano visti quest'anno, no? Direi che Calvani è stato molto bravo a non voler toccare quel mosaico che con tanta fatica e con pochissimi soldi era stato costruito, anche a fronte di prestazioni da parte di uno dei suoi americani di punta davvero raramente all'altezza del nome. Ma guarda, è vero, si può dire che Roma abbia veramente aspettato a lungo Bobby Jones, che è stato per tanti turni l'oggetto misterioso ma anche uno dei pezzi, come dire, di deludenti della stagione di Roma, che pure è stata eccellente per tanti altri motivi. Altrettanto a lungo ci si è chiesto come e quando Roma sarebbe intervenuta sul mercato, poi l'ha fatto integrando il reparto esterni con Bailey, però sembra che veramente l'addizione di questa fase di playoff ce l'avesse in casa, ed è Bobby Jones che adesso, la partita di oggi non è ancora chiusa, però insomma negli ultimi turni ha dato dimostrazioni di vitalità ed è sembrato quel fattore aggiunto, anche perché grandissimo atleta, ha dimostrato di sapersi sacrificare anche i ruoli difensivi sui piccoli, e questo chiaramente in un momento in cui le energie vengono a mancare, beh, Jones è uno che invece di energie dimostra di averne ancora parecchie. Palla spicchi. E allora andiamo subito a Reggio Emilia da Fabrizio Fabbri. Fabrizio, nuovo aggiornamento. Sì, sentivo l'intervento di Stefano Valenti e aggiorno la situazione di Bobby Jones, che è arrivato a 11 punti con la terza tripla nei primi 10 minuti, 19 Roma, 13 Acea Reggio Emilia, e il vero protagonista è il giocatore che pare veramente avere un conto aperto con la formazione di casa, perché per carità abbiamo inseguito tutto il campionato, ma per adesso 4 su 4 dal campo, insomma, è abbastanza sorprendente. Dall'altra parte molto bene Donald Taylor, che è come sempre l'anima di questa squadra, si riprenderà perché adesso siamo all'intervallo fra primo e secondo tempo con Roma in vantaggio di 6 lunghezze, 19 per la CEA Roma, 13 per la Trequarter Reggio Emilia. Certo, l'eroe assoluto, lo ripeto per adesso, Bobby Jones. L'abbiamo chiamato. Grazie Fabrizio Fabbri, poi torniamo da te. Intanto, tutti che si stanno giocando le semifinali, qualcuno l'ha già trovata e con pieno merito. E allora, grazie a Frank Vitucci per essere oggi nostro ospite qui a Palla Spicchi. Buonasera, coach. Buonasera a tutti voi radioascoltatori, buonasera. Allora coach, complimenti per la sua Varese. Grazie. Ce lo confessi, domani sera che fa, va a mangiare la pizza o si incolla davanti al televisore a vedere gara 6 tra Siena e Milano? Ma mangiamo la pizza guardando la televisione, diciamo così. Pizza di squadra, perché domani qualche appunto si può prendere, insomma, no? Domani cominciamo a prendere appunti un po' più seriamente, perché fino adesso non per scaramanzia, ma eravamo impegnati a prendere appunti sulle nostre partite, quindi da domani cominciamo a vedere un po' gli avversari. Ecco coach, 4-1 con Venezia, cosa lascia nel vissuto della sua squadra questo primo turno di playoff? Perché se avete vinto la stagione regolare, eravate nettamente favoriti, poi però andarla a giocare sul parquet, il turno di playoff con questa pressione, in passato, ahimè, io tifoso del vecchio Banco Roma, ricordo anche un'eliminazione clamorosa di quella squadra che una regular season la vinse, quindi insomma può capitare, ecco. No, infatti non doveva capitare, perché chiaramente per noi questo è diventato obbligato, no, tra virgolette, in qualche maniera, perché il primo ottavo, se la stagione regolare ha un senso, secondo me comunque. Qualche difficoltà nel collegamento con coach Vitucci, adesso lo ripristiniamo subito. Dicevamo appunto delle difficoltà che comunque presenta un turno da affrontare da favorite, così come ha fatto chiaramente Varese, che ora sta aspettando la qualificata tra la sfida tra le due corazzate della vigilia del campionato tra Milano e Siena. Domani a Siena gara 6, con Milano però forte del 3-2 finora ottenuto grazie anche al successo di ieri sera, chiaramente a Desi 82-67 su Siena. Adesso ecco, è tornato anche coach Vitucci, eccoci qua coach. Ecco, dicevamo, questo era un turno che per noi era diventato in qualche maniera obbligato, visto appunto che il primo gioca contro l'ottavo, e se la stagione regolare ha un senso, sicuramente a grandi linee almeno delle indicazioni importanti le aveva date, dovevamo passarlo, e quindi questo era per noi un compito che, se all'inizio dell'anno di passare il primo turno era il massimo risultato pensabile, possibile, ottenibile, eccetera, per quello che avevamo fatto sul campo in questi mesi, era diventato un passaggio obbligato, quindi siamo ben felici di averlo fatto in 5 partite, perché comunque l'avversario è un avversario di tutto rispetto. Ecco coach, sono due corazzate, quindi forse una vale l'altra per tanti aspetti, ma dovendo scegliere, prima che lo faccia il parquet, chi vorrebbe trovarsi di fronte tra Siena e Milano? Ma, nessuna delle due non si può dire. No, sono due squadre ovviamente molto, adesso non lo dico per essere diplomatico o per nascondere, ma sono due squadre estremamente attrezzate, estremamente competitive. Milano sappiamo che ha un roster, un budget, giocatori di alto livello, e in questo momento forse ha un po' più di energia, probabilmente anche fisica in qualche maniera. Dall'altra parte Siena c'è una squadra di grande taratura mentale, soprattutto perché l'Eurolega, perché il top 16 che ha fatto, la Coppa Italia che ha vinto, i campionati, insomma, sono nel DNA di quella squadra, quindi questo è molto, quindi questa è una scelta impossibile da fare, insomma, quello che troviamo. Beh, allora coach, io intanto la ringrazio, la lascio alla sua pizza domani sera, non escludiamo che debba ordinarle un'altra anche nel caso di gara 7 mercoledì, quindi insomma. menù sottomano, ecco. Va bene, grazie a voi, arrivederci, buona serata. Grazie, grazie, grazie a Frank Vitucci, coach di Varese, vincitrice della regular season e già qualificata alle semifinali. Ben trovato a Flavio Tranquillo. Buongiorno. Ciao Flavio, allora ti dico solo quattro nomi: Indiana, Miami e San Antonio, Memphis. Siamo arrivati al pokerissimo dall'altra parte dell'oceano, eh? E le sorprese non sono mancate, anche causa infortuni, no? No, le sorprese non sono mancate, sono sicuro che non mancheranno, non so se saranno sorprese in termini di passaggio del turno o meno, ma non sarà, diciamo, una passeggiata per Miami e San Antonio, non credo. Ecco, mi incuriosisce questa Indiana. Beh, insomma, sappiamo che il roster è ricco, equilibrato e profondo. Proprio la squadra che forse più di altre è in grado di dar fastidio agli Heat, no? Beh, decisamente da un punto di vista di intensità e di impatto fisico, sì. Non ha la qualità soprattutto nelle punte di New York in attacco, non ha magari giocatori di altre squadre per quello che noi chiamiamo forse anche un po' impropriamente talento, ma complessivamente sì, direi che è il cliente più duro, anche perché ha già sbattuto contro il muro degli Heat nella passata stagione. E senti, dall'altra parte invece San Antonio contro Memphis, immagino fuoco e fiamme nell'area colorata, perché con quei due, con Zach e Mark Gasol sotto canestro, non è detto che San Antonio abbia tutto il fisico, però come esperienza, come sapienza cestistica, forse i grandi vecchi di Coach Popovich si fanno ancora preferire. Questa è ancora più difficile da pronosticare dell'altra. Se Parchi e Reggie Nobili sono in buone o addirittura in ottime condizioni, sì, preferisco San Antonio di uno 0,1, però mi sembra un grosso se, soprattutto non tanto per una questione di condizione, ma per una questione di tenuta all'interno della serie. Quindi credo che quello sarà alla fine il fattore che deciderà le condizioni in senso un po' lato di questi due giocatori. E allora, prime verifiche già domenica prossima, sempre insieme. Grazie Flavio. A voi. Un ultimo flash, 20 secondi da Reggio Emilia, Fabrizio Fabbri. Time out chiamato da Menetti, 6:43 dal termine del secondo quarto. Trent Walter 15, Acea Roma 23, è salito in cattedra con due giocate di assoluto livello, quelle che lo hanno caratterizzato per tutto l'anno, Gigi D'Adome, che per quanto sia un avversario e chiaramente in alcune situazioni anche fischiato, ha strappato l'applauso sì, anche di tanti giocatori del palazzo, che è un giocatore assolutamente di grande livello, Fabrizio, e chissà che staltranno non sia dall'altra parte dell'oceano, staremo a vedere. Intanto grazie a Giorgio De Luca in redazione, Pietro La Corte in regia, io rimango a farvi compagnia perché c'è tutta una Serie A, un'ultima di Serie A di calcio da raccontare.